Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. Sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Figa, bravo, gioia. Caro Matteino, anche io sono fiorentino e quando viaggio in giro sento dire che porto questo accento che rallegra anche chi incontro in ogni luogo dell'Italia, ma com'è che mi rattristo quando mi viene detto che io gli ricordo quel bravo sindaco che invece io sberleffo, e sai perché? Tra promesse e inciuci elettorali fosti eletto. Caro Parenzo, oggi ho assistito quando mi hanno comunicato i candidati del Partito Democratico alle elezioni europee, sì, a una cosa, no? Vergognosa, una buffonata colossale, diciamo la verità, una buffonata colossale, fatta come al solito, come usa fare Renzi per comunicare, poi vediamo. Le cinque donne capolista alle europee, cinque, sì, donne, sì. Ho messo cinque donne capolista, come se cambiasse qualcosa, a parte che ci sono le preferenze. E poi che vuol dire cinque donne capolista? Perché? Per quale motivo? Che bisogno c'è? Beh, lui aveva annunciato però questa cosa, ma se non si sapeva fino a due secondi prima, ma che dici? Quale annunciato? Che avrebbe messo, avrebbe dato molto spazio nelle liste alle donne. Senti, o hai qualcosa da dire su questo o non ce l'hai. Per me è una buffonata. Non l'aveva detto. Ma no, un conto è dire che è una buffonata. È una buffonata o no? È una buffonata o no? Per me no. Beh, allora di questa qua. Ma dimmi, sai, alle volte dire questo. Anche delle cose banali, riporta le cose alla realtà. Benissimo, magari per te, qualcuno per la te pensa no. Come me. Per me mettere cinque donne, ecco, capolista, appunto, nelle cinque circoscrizioni. Benissimo. Non è un bel segnale, ma è una cosa se non altro nuova. Queste una cosa cinque nuova. Chi sono? Una cosa nuova. Se mai si può discutere di chi sono queste cinque. Ma non mi interessa, cinque. Non mi interessa. E allora di cosa vogliamo parlare? Non ho capito. Vabbè, sentiamo Renzi, dai. Il Partito Democratico avrà per le candidature alle europee cinque donne alla guida delle cinque circoscrizioni. Questo credo che sia la migliore risposta a chi in questi mesi, queste settimane, ha accusato proprio me, per di più, di una scarsa sensibilità. Una scarsa sensibilità nei confronti delle donne, siccome lo accusavano di questo, allora ha messo cinque donne capolista alle elezioni europee. Renzi. Poi dice: nelle redazioni giornali ci sono solo uomini. Ma io vorrei fargli fare una. Questo non è vero. Gli vorrei far fare un viaggetto pure qua per vedere se è vera questa cosa oppure no. Nelle redazioni dei giornali ci sono solo uomini. E chi se ne frega di queste cose? Io sono abbastanza sorpreso perché vado in tanti ambienti, anche in redazioni autorevoli di giornali internazionali, e mi sento fare la predica sul fatto che l'Italia non valorizza le donne. Poi penso, mi guardo intorno, vedo i miei ministri e vedo metà donne, vedo le candidature europee, vedo cinque donne, vedo la squadra del mio partito fatta per metà da donne, e poi vedo la redazione di quello stesso giornale che ci sono nelle prime pagine, non, per avere un articolo firmato da una donna, se va bene ce n'è uno ogni 15 giorni, uno alla settimana. Ma com'è? Ti rendi conto o no? Questo non è vero. Ma non è che è una puttanata, questo, e basta. No, questo non è diciamolo, vero. Diciamolo, è una puttanata. Non è vero. Però se lui vuole introdurre un tema che per te è noiosissimo, che è quello mia, del guarda. Fatto che le donne hanno difficoltà ad accedere al mondo del lavoro perché hanno figli, questo tema mamma noiosissimo mia. Per te, se tu vuoi criticare questo, questo è un altro piano di critica. Vabbè, allora, mi sorprende che il ministro Guidi, va, il ministro Guidi, che dice che ci vogliono le quote rosa imposto per legge, credo pure nei CDA delle aziende, cose di questo tipo, credo, sentiamo la Guidi. Io ho sempre avuto una posizione da, appunto, da donna che ha sempre fatto un mestiere, diciamo, maschile, un po' diciamo sospettosa, nel senso che l'idea di dover essere protetta come un animale in via di estinzione non mi è mai piaciuto, però devo dire che nel corso degli anni ho anche valutato il fatto che uno shock servisse, perché dato che evidentemente altrimenti le cose non si muovevano, forse era giusto imporlo anche per legge. eri ancora giovane. Allora, non si è capito nulla. Da una parte ha detto che di essere contro le quote rosa, dall'altro dice siccome non si muove nulla, forse bisogna imporlo per legge. Confusione. Invece la Guidi ha detto una cosa sacrosanta quando, a proposito della Fiat, ha detto è privata e va dove vuole. Non potevate fare qualcosa per trattenere la Fiat? Ormai si è trasferita la sede legale in Olanda. Non c'era modo per trattenerla. Sa, come dire, io anche per il mestiere che facevo prima, ma anche per filosofia mia, insomma, un'azienda privata può fare quello che vuole. Beh, certo. Quindi questo non c'è. Su quella bolla più mediatica che c'è. Meno male. Mille i proclami. Che sorridente tu ci esclami. Lasciamo perdere la quattordicesima, le cose di ieri, gli 80 euro, eccetera, eccetera. Però la notizia più bella della giornata è un'altra. Qual è? Dimmi, qual è la notizia più bella? La consulta. Ci arriviamo. Civiltà. Civiltà. Io dico civiltà. No, anch'io lo dico. Oh, grande spettacolo al Senato, dove... è passato l'ennesimo provvedimento sulla TAB, non so nemmeno cosa, perché in Italia ci vogliono 40.000 pronunciamenti da parte di parlamenti, corti, enti locali, eccetera. Non so che passaggio fosse, ma me ne fotto, al Senato, e dove i 5 Stelle hanno dato spettacolo. Il signor Scibona, per esempio, si parla di secessione del Veneto, a noi cediamo la sovranità alla Francia con la TAB, basta Scibona. Si parla di secessione del Nord-Est, di arresti, di carri armati. Ma che dire di questo Parlamento, di questi parlamentari che voteranno a favore della cessione di sovranità alla Francia di parte del territorio della Valsusa? Porto questo accento che rallenta. Perdita di sovranità. Ogni luogo dell'Italia, ma com'è? Scibona ancora, dai. A voi non rimane che vergognarvi. Uno, due, tre, a Saradura! Tra promesse in ciuci elettorali, fosse io sono sempre a favore della TAV, non ti preoccupare, Parenzo. Non ti allarmare. Ci mancherebbe altro. Non ti allarmare. Sì, TAV subito, anzi, ieri andava. Allora, fatta. C'è un signore che si chiama Lucidi, credo che sia ancora uno dei 5 Stelle, se non sbaglio. Lucidi, che dice che la TAV sarà un altro Vaillant. Tiè! Sì. Lo scorso ottobre sono stato alla commemorazione del Vaillant. Che cosa ci ha lasciato questa esperienza? Il Vaillant è un esempio ancora molto vivo di quella che è la politica italiana. Quella esperienza ci ha fatto capire che l'attuale politica italiana e con questa opera sta usando le stesse logiche degli anni 60. Dal potere, come Silvio dal godere. Va bene ragazzi, oggi la Corte Costituzionale, caro Parenzo, dillo con un po' di, bisognerebbe una bocciato, musica sacra, ha bocciato vuole. Il divieto di, in termine tecnico si dice eterologa, in caso di infertilità assoluta è illegittimo impedire il ricorso a un donatore, cioè da questo momento no, in poi. No, dilla diversamente. Cosa? La Corte Costituzionale sì. Ha mandato a quel paese tutti quei bacchettoni che ci volevano impedire agli italiani di avere figli. Tu! Ma detta così va raccontata, con rispetto, con sobrietà, senza accalorarsi. Allora, così, consulta, avanti tutta, eterologa, trisologa, quadrologa, avanti per avere figli, grazie, consulta, con sobrietà va detto, con pacatezza, con sobrietà. Abbiamo con noi Mario Adinolfi, buonasera. Buonasera cari, come va? Siete ripresi? Combattiamo, perché? No, ti sei ripreso tu. Ho sentito un Parenzo, diciamo, ai vertici della cazzaraggine. Quindi, insomma, beh, ai vertici della cazzaraggine, in realtà è quello che pensa. Io voglio capire una cosa, ti sei ripreso tu dalla consulta oppure no? Tu che sei... Ma io già lo sapevo, oggi stamattina ho già scritto, non è che mi sono sorpreso, insomma. Che andasse così era chiaro, insomma, ormai i giudici decidono sulle leggi espresse al Parlamento, vabbè, piace. Quando la consulta decideva sull'odio al Fano, esatto. non è che ti ribellavi. Dicevo la stessa cosa. Ma figuriamoci. Penso che la legge elettorale la possa fare la consulta, non penso che la legge sulla vita possa decidere la consulta. Beh, però scusami Mario, la consulta è la stessa cosa. Però la scusami, se la consulta, cioè questa corte costituzionale, ha questo ruolo di valutare le leggi, perché questo deve fare, deve valutare la costituzionalità. Esattamente, vuol delle dire leggi, che ha mandato a quel paese la legge. Certo, la costituzionalità. La costituzionalità. Tu hai detto valutare le leggi, perché tu in realtà quello vuoi che valuti le leggi secondo il tuo piacere. Ha valutato la legge contro costituzione, cioè contraria alla tutela delle persone. Qual è l'elemento di costituzionalità violato dalla legge? Spiegalo. Perché secondo la consulta, la legge fatta dal Parlamento viola la legge elettorale. Come fa la Corte Costituzionale a intervenire cioè, sulla non legge capito, elettorale? Spiegami, secondo te la Corte Costituzionale fa il cazzo che vuole? Sostanzialmente la Corte Costituzionale sta scrivendo il diritto che doveva scrivere il Parlamento. No, ambiti, dice che il Parlamento ha legiferato male. No, no. Ripeto. Marione, allora, ti voglio bene, ma non è così. La consulta ha detto un'altra cosa. Il Parlamento ha legiferato a cazzo. Che l'intervento della legge, sulla legge elettorale sia stato un intervento perché parli di Costituzione? Non lo so. Perché è la stessa cosa. No. Cioè, non ho capito, risponde a un'ondata politica, che cosa? Risponde a un'ondata mediatico-politica. La Corte Costituzionale ormai mette fuori il pollice bagnato e vede dove tira il vento. Sì. Allora, a seconda di dove tira il vento, interviene per farsi fare l'applauso in quel momento. E qual è il vento oggi? No. Il vento qual è oggi? Il vento è ovviamente quello che lo strillo di Parenzo. Insomma, cioè, che oggi chiunque può fare, può avere un figlio, un single, no, non dice questo. Gay. Ma ieri c'è stata una sentenza di un giudice, non della Corte Costituzionale, che ha detto che l'utile in affitto si può fare in Italia. Si può fare, tu puoi andare in India, comprarti un bambino con una vocina di un altro, prendi 100.000 euro e poi vivi, puoi farlo. Beh, no, questo è vietato, questo no, è vietato. Non è che ieri c'è stata una sentenza. Sì, vabbè, però poi, l'ho letto, però questo è vietato, formalmente non è vietato. Non è vietato, perché quella signora ha fatto esattamente questo, è andata in India, si è comprata un bambino, è tornata in Italia, ha dichiarato il falso, perché ha dichiarato che il bambino era figlio suo, 54 anni c'è sta signora. Ma quello è un caso limite. Ma non è un caso, è una sentenza, lo capisci che stanno facendo le leggi con i giudici e ti piace? Scusa, a me non piace. Sì, però tu vorresti sostanzialmente che a nessuno fosse una coppia che non può avere figli, tu dici si devono accontentare. È un altro piano del discorso. Se vogliamo discutere sulla fecondazione di droga, discutiamo sulla fecondazione di droga, che è un'altra questione. No, nel ovviamente merito, io ho un'opinione diversa. Del va merito, bene, ma io la rispetto la tua opinione. Cioè, tu pensi che una coppia che non può io avere figli ce deve stare. Quello dici, ci deve io stare. Penso che viene prima il diritto del bambino a me di nascere senza sapere chi è mio padre, chi è mia madre. A scusa, me non piacerebbe, aspetta. Diciamo così. Ma Mario ha ragione, nel merito può aver ragione. Cioè, secondo, Corte ha detto che il Parlamento ha legiferato, aperte virgolette, a cazzo. Questo ha detto, cioè che la legge 40 è incostituzionale, cioè contro la carta. C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. Le zanzare di casa mia. Scusa, vai. Ogni ascoltatore fa i suoi appunti. Infatti, sì, no, noi, perché infatti, certo, infatti bello. Per rispondere a questo ascoltatore abbiamo invitato Mario Adinolfi, blogger, giornalista, autore di Voglio la mamma da sinistra contro i falsi miti di progresso. Ha scritto un libro dal titolo molto chiaro, Voglio la mamma. Io voglio però tornare in maniera definitiva su questo argomento dopo la sentenza della Corte Costituzionale oggi, caro Mario. Ci voglio tornare in questo modo. Allora, secondo te, se una coppia non può avere figli, però dimmela tutta fino in fondo in maniera comprensibile, chiara, per i tassisti, i camionisti, tanta gente che ci sta ascoltando. Ma non mica perché dico che sono stupidi, perché sia chiaro, secondo te due persone che non possono avere figli, l'inseminazione, queste cose non vanno fatte perché uno deve avere certezza del padre e della madre dal punto di vista biologico, dunque tu dici che ci devono stare o no? Per me l'inseminazione si può fare a certe regole, con certe regole, l'eterologa non la farei, cioè io, per spiegarla ai camionisti, a mia moglie ingravidata dallo spermatozoo di un chiunque che non conosco, non lo farei, diciamo così. Per cui le banche dati, queste robe qui, tu non le concepisci. Lo sperma sono follie, cioè secondo me è una cosa totalmente senza senso, per soddisfare cosa? Il desiderio di una persona? Ma sto ragazzino ce l'avrà un diritto che viene prima o no? Vabbè, ma poi infatti nasce, infatti nato, sta 9 mesi nella pancia di mamma, no? Ma quale mamma? Di una mamma magari comprata in India? Ma che mamma? Di una mamma comprata... Perché adesso, ovviamente, se questa è la regola, caro Giuseppe e caro David, a questo punto il problema del genitore, della madre e del padre, non serve più. serve l'ovocita e lo spermatozoo, poi servono degli incubatori. Vi piace un mondo così? Ma no, poi a si me diventa, fa cagare no, un mondo così. Si diventa, un mondo così fa cagare. Però torniamo alla questione politica, però, Mario, scusami, della consulta. No, ma, no, della voglio consulta. Parlare politicamente, che politicamente il Partito Democratico su queste cose non capisce un cazzo, ma da molto, come diceva Virzì. E purtroppo non riesce a capire che la tutela del più debole è la tutela del bambino che nasce, non del frocio bambino... che ha il problema di farsi il figlio inventato nato da Ugo e Pino, perché Ugo e Pino i figli non la possono fare e non c'è niente da fare. Ma cosa, scusa, che ha questo. Scusa, scusa un attimo Mario, però ma Ugo come e Pino si chiama? Vogliono adottare, aspetta, magari, però. Aspetta, Ugo e Pino diceva l'altro giorno, come si chiama, Scalfarotto dalla Bignardi, Ugo e Pino possono avere figli. Non possono avere figli, cioè, possono avere figli sì. con donne, che è una cosa diversa. Vabbè, quel però possono crescere un figlio, figlio possono, di... ma possono, ho capito, possono non è un'altra cosa. Bene a tanta gente, non è che ci esiste solo il padre e la madre bambini. Biologico, esiste il padre e la madre che poi si, come dire, nella vita quotidiana fanno il padre e la madre. Cioè, la mia risposta a questa questione è che un bambino ha diritto ad avere una madre e un padre. Infatti cioè, ce l'è. Se non c'è, no, perché il figlio di Ugo e Pino è figlio di Ugo e Pino. Elton John che si sposa col suo marito David, il figlio lo fa e lo strappa dal seno della madre che lo sta allattando il primo minuto di vita. Funziona così. Sì, ho capito, ma questi capisci? Figli possono crescere, nascere, possono crescere a benissimo. A te piace che un bambino neonato sia strappato dal seno della madre? Ma io quello che figli... strappa, ma nessuno. No, è quello. Strappato ma quello è. Ma voi perché hai utilizzato la parola? Denari... Perché hai utilizzato la parola froci? Perché si può utilizzare? Ah, non si può fare, giusto? No, non io per me, si... per me si può fare. Io sono frocio, chi lo sa? So, per me si può fare. No, perché è offensivo. Rivendichiamo questa cosa. Perché Parenzo non si può fare? Spiegami. Ho mandato due volte ai probiviri perché uso la parola. Perché credo che sia considerato e la legge offensivo. Che vogliono approvare sull'omofobia impedisce di utilizzare la parola froscia. Te credo, se te mi offendi io ti tiro una centra in testa, però scusa, no, metaforicamente. Ma non c'è dov'è nessuna offesa, dai. Se tu mi dici ebre, scusami però, ma perché non potete ragionare, anche, soprattutto Mario, non Cruciani, ormai se io dico perso. Brutto froscio è un'altra cosa, se io dico maledetto ti credo, froscio ma stai scherzando, se tu mi dice zitto ebreo, se tu mi dici zitto ebreo, io ti do una testata in faccia, capito? Ha ragione Adinolfi, ha detto che tra froci si chiamano froci. Sì, ma Mario, scusami, sei una persona intelligente. Se tu mi dici zitto ebreo, io ti tiro non mi puoi dire questo è proprio il punto, bravo David, ma tu vuoi equipararmi il fatto che io possa rivolgermi a te con questa espressione con l'antisemitismo? È dispregiativo, si chiama dispregiativo, tu studi anche la lingua italiana, ma lo non sai fatti, ma è detto in modo dispregiativo, ma è l'intenzione che conta, David, è l'intenzione, si chiamano froci tra di loro, si chiama lingua italiana, non occorre metterci l'aggettivo brutto stronzo per farlo, tanto perché così allora ci perché chiariamo tra, no? Se però gli dici frocio è volgare, è cattivo, è denigratorio, ma dicono ciccione del merda, lo dicono ogni fatto che faccio. E infatti è problema, c'è la ciccionofobia, mi fanno la legge sulla ciccionofobia a me. Dai, scusa, ha ragione. E mi dicono ciccione pure a me. Ha ragione Adinolfi. Se vi piace un mondo in cui ma la mondo di che? Mondo di che? A te piace il mondo per della ferire. Perfezione che non esiste. Io non sono maleducato. No, voi, lui vuole. Io non sono maleducato, è molto semplice. Sono tutelate e quelli degli altri no. Io non sono un maleducato, ma lascia perdere questa cosa del maleducato, tu sei un maleducato. Ma sarai tu un maleducato. No, manco per niente. Ma sarai tu un maleducato. Manco per niente. Lavi 4 5 fate figli con tutti, con chi ve pare. Quello è un altro discorso, quella no, discorso. No, perché scusa. Hai parlato di Gestapo l'altro giorno, la Gestapo sul l'ho caso scritto, di quello? Perché se tu prendi uno che fa il capo di Mozilla e perché ha dato $1,000 a uno gli fai perdere il lavoro e lo indichi al pubblico ludibrio, questo è esattamente quello che facevo nei confronti degli ebrei nei primi anni 30 in nazisti, è esattamente la delegittimazione che è avvenuta prima ovviamente. Ma in Italia come funziona la Gestapo? In Italia c'è allora, qualcuno? Io penso, tu non lo sai, ma ti ricordi Guido Barilla, te lo devo ricordare? O vuoi che ti ricordo Costanza Miliano? Basta che andiamo nella tua trasmissione e vediamo che succede dopo. È già successo a Guido Barilla e a Costanza Miliano. Ma chi sono i capi della Gestapo in Italia? Ma i capi, insomma, esistono le associazioni, la Cigay sicuramente, Franco Grillini, l'altra volta, due giorni fa sono andato a fare la sentinella in piedi io a fare queste letture davanti al Pantheon, Franco Chini ha detto: andate a contestarli, fate in modo che non la facciano questa manifestazione. È una modalità corretta di svolgere. Cioè, Grillini è uno di quelli che può essere annoverato come una sorta di aguzzino della Gestapo. Gli ha detto: andate lì davanti e andate a contestarli. Io vado a contestare il Gay Pride quando lo fanno. No, cioè, figuriamoci. Qualcuno lo fa ed è legittimo. Bravi, lo facciano. Devo chiudere. Ciao Mario, a presto. Ciao Marione. Ciao. Mi piace un mondo così. A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara. Ah, per quel cesso di trasmissione. Le zanzare di casa mia. Mi piace un mondo così. A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Understand? Si svegliano per me quando tutto sembra poesia. La cruda verità. Caro Mario Adinolfi, a noi invece, e devo dire in questo caso sono praticamente d'accordo con il dottore Parenzo, a noi non fa schifo un mondo dove qualcuno, se vuole avere un figlio, certo, lo può avere con l'eterologa, con l'inseminazione, con l'utero in affitto, un single, un gay, una coppia gay, purché poi i figli vengano fatti crescere con amore, perché i figli qualche volta crescono in famiglie dove ci sono due eterosessuali, insomma una famiglia tradizionale, e vengono fuori degli aborti di figli, diciamolo, anche nelle famiglie tradizionali, e vengono invece fuori degli scienziati o delle persone normalissime nelle famiglie dove ci sono due gay, o quando vengono cresciuti da un single. L'importante non è da dove si nasce, da chi si nasce, ma come si cresce. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Eccola. La matta di Anastasia, dai su. La sobria signora. Ma dove è finita la signora di Vicenza? La sobria nonnina. Perché poi non è neanche nonnina, mi pare. Razzi di nuovo all'appetito, viene parlando sulle cronache abruzzesi. Cos'è le cronache abruzzesi? Ma che ne so, senti, grazie alla Zanzara faccio beneficenza, senti. Ma voli solo tu da me. Molti giovani mi chiedono la maglietta. Io questa maglietta, grazie alla trasmissione La Zanzara su Radio 24, si sta facendo un'opera di beneficenza per la Onlus Diversi Uguali di Pescara, dove c'è la presidente Gianna Camblone, e tutto il ricavato è per questa associazione. Io sto facendo beneficenza, me ne sono orgoglioso. Meglio Razzi di Piano, che Razzi vende la sua maglietta per beneficenza facendo del Piano invece fa il suo atelier. Ma perché atelier al Senato? Perché uno non può fare un atelier al Senato, all'ufficio del Senato, creare un atelier, ho visto. Per rendere bello al Senato. Poi ci devi andare anche al Senato. Questo sì. Senti, molti giovani in gita. Senti. Razzi arriva. Ci sono molti giovani ragazzi che stanno in vacanza lì a Roma con le scuole, e si fermano e vogliono ognuno fare la fotografia con me. Mi fa un enorme piacere, no? E così fa vedere che anche i giovani sono attaccati alla politica e imparano qualche cosa anche da parte della politica. Io spero che anche questi giovani difendano anche a noi che stiamo lavorando per loro, e io penso che questo Crozza ha fatto bene quello che sta facendo. In Italia ci invidiano, cioè Crozza però dovrebbe capire, anzi Razzi dovrebbe capire che i giovani si fermano, ormai si confondono. No, ma per Crozza si fermano in realtà, cioè mi piace Crozza. L'altro giorno ho visto un filmato di una signora davanti al Senato mentre lui era intervistato, che si fermava e diceva: ma lei è fenomenale, mi sta simpaticissimo. E l'intervistatore chiedeva: ma perché? Perché è uguale a Crozza, cioè dicevano questo. Dunque Crozza deve sapere, bisogna dirglielo chiaramente se ci sta ascoltando qualcuno dei suoi, qualcuno che poi glielo riferisce, che in realtà sta facendo una campagna elettorale pazzesca per, sì, Razzi. Ha una responsabilità. No, quello non lo so, Crozza. E sta facendo diventare simpatico Razzi, cosa che già lo era, perché a tutti praticamente, anche a quelli che poi in realtà lo odiavano perché è stato uno di quelli che è passato con Berlusconi, dopo Di Pietro, eccetera. Ormai Razzi è un personaggio sdoganato, ci si è dimenticati totalmente della vicenda di Berlusconi, del tradimento, del, certo, passaggio di casacca, certo, eccetera eccetera, finito, morto. Mentre rimane così una figura dimenticata, il signor Mimmo Scilipoti, il ginecologo. Mimmo, poi parleremo anche di Mimmo più Mimmo avanti. Rimane, signor, diciamo, Mimmo Scilipoti. Razzi, in Italia ci invidiano, senti un po'. In Italia conoscono la Ferrari, la Maserata e Berlusconi. Penso che questo anche per noi italiani dovrebbe essere un orgoglio, certo. Che c'è un'invidia verso il nostro numero uno, il nostro presidente Berlusconi, e noi magari cosa stiamo facendo? O diciamo dall'altra parte politica, noi l'abbiamo condannato, l'abbiamo, che le stanno condannando, quando è una persona invidiata in tutto il mondo, è una persona eccezionale. Scusi, ma non è Maserati? Sì, perché è lui che ha detto Maserata. Ah, Maserata. Ma magari non sono informato, no, io, ho cambiato nome. Rimane sempre Maserati. Non prendere per il culo, dai, su. Chiedo, Maserati. Maserati. Lui ha detto Maserata. Vabbè, dai, poi sì. Ma che vuoi, ciao, che sia una cosetta, sì, dai, su, sì. E dai. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La Corte Costituzionale boccia il divieto della fecondazione eterologa. Cade così uno dei pilastri della contestata legge 40, nata 10 anni fa. Renzi, non ci sarà nessuna manovra correttiva, anzi prevedo sorprese positive. Chiediamo sacrifici a chi ha avuto di più, l'Europa, bene il DEF italiano. La scelta del PD alle europee, dal nord al sud, solo donna capolista, il voto unanime della direzione, il segretario non bandierine ma persone preparate. Domani l'udienza del Tribunale di Sorveglianza su Berlusconi, servizi sociali o domiciliari. Lui attacca un complotto per non farmi candidare alle europee. E polemica sulla proposta della Nestlé di rendere più flessibili i contratti di lavoro. Gli operai della Perugina verso un'occupazione sempre più stagionale. Situazione esplosiva nell'est dell'Ucraina, ultimatum di 48 ore ai filorussi che occupano gli edifici governativi a Donetsk. Putin, niente passi affrettati. La crisi economica ha dato un nuovo slancio alla creatività, il Salone del Mobile di Milano si conferma vetrina del Made in Italy, le aziende investono in ricerca e innovazione. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. E non mi mordere il dito. Continuano a combattere i due, caro Parezzo. Continuano a combattere. È una lotta eterna. Chi parli, scusa? Aspetta, aspetta. È una lotta eterna. Una lotta che risale ormai a più di 20 anni fa. Sto parlando di due critici d'arte molto conosciuti, Vittorio Sgarbi e Achille Bonito Oliva. Signor Achille Bonito Oliva ha rinfocolato questa lotta, che è finita anche in tribunale con una richiesta di risarcimento e con una sentenza a favore di Achille Bonito Oliva intorno ai 50.000 euro più gli interessi. E Achille Bonito Oliva ai microfoni di questa emittente, ai microfoni di questa trasmissione Popolo della Radio, cosa ha detto? Ha detto che Sgarbi è una nullità come critico d'arte contemporanea. Io devo dirti la verità, a me mi sta simpatico sto Achille Bonito Oliva, perché è uno spiritoso, un vecchiettino simpatico, però Vittorione non si tocca, Vittorione non si tocca. E poi chi è lui per dire che come critico d'arte contemporaneo nullità? Chi è? Non è l'ultimo, sì, sì, arrivato. Vabbè, ma queste sono lotte. Dal punto di vista scientifico, secondo me, dice Achille Bonito Oliva. Allora, io credo che Sgarbi come critico d'arte contemporanea è una nullità. Lui è un conoscitore dell'arte antica, sì. Infatti non ha dato nessun contributo importante, non c'è nessun saggio libro suo che si ricordi. I miei libri sono tradotti in tutto il mondo, anche in Cina, per dire, quindi. Spiega i quadri alle parrucchiere in TV. Questa è un'accusa gravissima. In realtà poi c'è un po' di snobismo in questa cosa, come quando io dico i camionisti tassisti. Ma io non lo dico camionisti tassisti per... No, ma lo sai benissimo. Non lo dico per disprezzarli, perché pensano che capiscono meno di te. Per esempio, secondo me un tassista o un camionista capisce molto più di Parenzo. Ma questo è normale, molto più. Ma certo, assolutamente. Tante cose che io non capisco, di questo sicuro, ma... Bonito Oliva. Per televisione spiega un quadro alle parrucchiere, alle commesse per televisione, quindi. Ma perché le commesse non possono vedere la televisione? Ma non è vero! È per dire che sicuramente ci saranno anche delle coiffeuse. Bonito Oliva, Giovanni da Caserta, buonasera. Luciani? Giovanni, dimmi. Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci, di razzi. Io voglio che parlate di cose interessanti. Vi voglio sentire un'altra volta, i bevitori di piscio. Ah, ecco, ho capito. Lei vuole passare, vuole passare. Ah, Vannoni. Posso fare un appello? No, non era Vannoni, non come si chiamava? No, Giovanni. Giovanni, quello era un signore che si chiama Banoli. Ma Vannoni, non Vannoni. Scusa, quello Vannoni è quello amico di Stamina. Di Parenzo, sì, sì, scusa. No, non era amico di Parenzo, al limite amico, no, amico mio. No. Signor Banoli, il quale sì. era a favore di una cosa che lei ha sintetizzato come bevitore di piscio e che noi invece definiamo come urinoterapia, capito? Sì. Cioè, persone che sono convinte che bevendo l'urina in un certo modo la mattina. È una famiglia un po' strana quella, Banoli, lì, signor Banoli. Lì facevano bere di tutto. Hai capito? Allora, un appello a Banoli. Banoli, voglio risentirti. Ma perché l'ha già detto? Cosa deve aggiungere di più? Non è che ci può fare, come dire, il calendario e come va la bevuta perché di piscio. Sicuramente era più interessante di parlare di Froci, di Razzi. Ma no, di ma no. Ma noi mettiamo tutto in mezzo, non si preoccupi. Luca da Como, buonasera. Comunque si ripresenterà Banoli, Giovanni sarà contentato. Luca da Como, anche perché ha prodotto, ha creato una cosa incredibile, signor Banoli, quello dell'urino della pia, dopo te la racconto. Luca da Como. Eccolo qui, buonasera, dimmi. Buonasera Parenzo. Vai. Io volevo dire che già noi siamo lo zimbello dell'Europa. Poi immaginate quelli che hanno conosciuto Razzi dal vivo, cioè in Svizzera. Pensano già l'Italia è quello che è. Sì. Quelli che lo hanno conosciuto cosa possono pensare adesso? Ma non lo so, non lo so. Tant'è che Razzi è stato uno di quelli che però ha preso le preferenze almeno una volta rispetto ad altri. Però volevo dire al signor Razzi, rispetto a un nominato come Piano, nominato dal Presidente della Repubblica. È un altro livello, Piano, è un altro Piano, livello, qualche dai. Merito, qualche merito ce l'ha. Ma quale merito, dai, rispetto a Razzi, quale merito? Sono uguali, meglio Razzi, dai. Qualche palazzo l'ha costruito. Ma che se ne frega. Volevo dire che Yo Il è un ufficiale dell'esercito nordcoreano. Ha scritto un libro, lui ha disertato. Sì, è stato bruciato vivo, mi sembra, no? No. L'altro giorno hanno bruciato vivo qualcuno in Corea del Nord. È scappato in Cina già. Vabbè, ma adesso che ci importa a noi? No, questo racconta che i nordcoreani, i soldati rubano il cibo ai contadini, i contadini non hanno cibo, e allora? E questi compiono atti di cannibalismo per potersi sfamare, dopodiché quando hanno la panza bella ma piena, sì, ma l'ho capito, ma lo sappiamo tutti qual è la situazione in Corea del Nord, non c'è bisogno che ce la spieghi lei. Soprocio en me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprocio en me. Uno dei più grandi conservatori italiani, ormai è diventato così, dal Partito Democratico, anzi dentro il Partito Democratico e fuori dal Partito Democratico, ha sempre pensato che ci fosse una lobby gay, ha sempre pensato che il matrimonio fosse quello solo tra uomo e donna, è sempre stato contro la fecondazione assistita, queste robe qui. La storia, diciamo la verità, la storia, caro Parenzo, sta andando da un'altra parte, direi, caro Adinolfi. Però sulla legge sull'omofobia sono d'accordo con lui, cioè si può insultare, ma quale insultare? C'è la libertà di offesa, se uno insulta ci sono le leggi, c'è la libertà, se ti di dico offesa. brutto froscio di merda e occorre... se ti dico brutto froscio di merda tu mi porti in tribunale anche senza una legge speciale, ma capito? Sarebbe anche la prima parte, perché in italiano ci sono le parole dispregiative, le hai studiate, no? Senti amico mio, se a te dà fastidio stare in questo contesto, ma c'è una, no, c'è una ma possibilità, io ti sto spiegando, c'è una possibilità che l'italiano è fatto di parole, allora? No? Le parole allora? Dispregiative sì. sono offensive a casa mia, sì, d'accordo, credo. Ma infatti c'è il codice penale che prevede anche adesso, senza una legge speciale, la possibilità di essere portati in tribunale. Non è una se legge tu speciale, dici brutto proprio di merda, tu devi aggiungere una pena per il fatto che c'è un gay? No. Non è una vergogna, non è un difetto, non è una malattia, non è un delitto da mettere alla gogna. Nessuno sa. La tutela del più debole è la tutela del bambino che nasce, non del frocio che ha il problema di farsi il figlio inventato nato da Ugo e Pino, perché Ugo e Pino i figli non la possono fare e non c'è niente da fare, è la natura che ha scelto questo. A questo punto il problema del genitore, della madre e del padre non serve più, serve l'ovocita e lo spermatozoo, poi servono degli incubatori. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, fa cagare. Mi piace tutto quello che hanno dentro le mutande. Ah, non si può fare, giusto, lo posso dire solo i froci. Secondo me si può fare, Ma dov'è l'offesa? Ma scusate, tra froci si chiamano froci, perché non si può dire? Tra froci si chiamano froci, ma qual è il problema? io con, ho molto rispetto per la vostra posizione. Aspetta, continua. Ma prendete un dizionario. Fai continuare a Dinolfi e non rompere le palle, dai. Prendi un dizionario e guarda cosa significa. Mamme mi dicono ciccione de merda, lo dicono ogni passo che faccio. E che problema? C'è la ciccionofobia, mi fanno la legge sulla ciccionofobia a me. Se ne fottono e mi dicono ciccione pure a me fra tre minuti. Perché hai parlato di Gestapo l'altro giorno, la Gestapo sul caso di quello? Perché se tu prendi uno che fa il capo di Mozilla e perché ha dato $1,000 a uno gli fai perdere il lavoro e lo indichi al pubblico ludibrio, questo è esattamente quello che facevo nei confronti degli ebrei nei primi anni 30 i nazisti, è esattamente la delegittimazione che è avvenuta prima ovviamente del dramma e l'olocausto. Va bene, Gaia Padova, buonasera. Sì, ciao, buonasera. Ciao Gaia, dimmi. Niente, mi unisco al grido di Parenzo e volevo dare solo la mia testimonianza. Io sono una mamma che è andata in Spagna e penso personalmente di aver fatto, io e mio marito, la cosa più giusta, più bella. Sì. Scusate, stavo correndo. Più bella, più giusta. Ma stai facendo running? Vabbè, sì. Scusa. No, vabbè, ottimo, meraviglioso, scusa. Stai ascoltando la zanzara mentre corri? Sì, esatto. Beh, siamo al top. Mio figlio ha 7 anni. Ma dove corri a Padova, signora Gaia? Ma che te frega a te dove corri a Padova? Sono di Padova, questo mi piace l'idea di contestualizzare le persone. Sull'argine. Ah, sul Bacchiglione? Sì. Ah, bellissimo, lì sul Bacchiglione, bello, Sì. Bello. Comunque, fino a Volta Barozzo arrivi. Ma che ti importa dove arriva, Gaia? Ma dici che non era. Ma tu non sai, poi soprattutto non sai come si nulla della corsa, di come si corre, eccetera. No, cioè, Gaia sta ascoltando la zanzara, cosa che bisognerebbe fare continuamente tutti i runner che sono in questo momento impegnati in duri allenamenti dovrebbero collegarsi con la zanzara. Allora, signora Gaia, dunque? Dunque, volevo dare la mia testimonianza dicendo che ho fatto la cosa più bella e più giusta che potessi fare. E quanto ha dovuto pagare per andare in Spagna? Vergogna per lo Stato italiano che costringe le persone ad andare in Spagna. Vergogna. Quanto l'hai costato? 10.000, capito? Grazie Gaia, continua a correre. Mirella da Padova, sempre Padova. Ma che è successo da Padova stasera? Mirella. Da Padova siamo collegati, buonasera a tutti. Sì, allora. Io volevo intervenire sull'adozione degli omosessuali che dei bambini. Sì. Allora, fermo restando che io sono convinta che anche due uomini possono essere degli ottimi genitori, poi dipende dal carattere, insomma, uomo, donna, questa roba. Però io penso anche che un bambino ha il diritto di avere un papà e una mamma, nel senso la curiosità di sapere chi è mia mamma. Potrebbe essere discriminato il bambino. E vabbè, a un certo punto uno saprà chi è la madre. Secondo le leggi uno ha diritto a un certo punto di sapere chi è la madre. Quando è cresciuto sa chi è la madre, che non ti voleva, che magari non ti voleva, come succede in America, eccetera, eccetera. E allora ci sono tanti problemi che possono arrivare ai bambini. E ci sarà anche questo come problema, in alcuni casi. Ci sarà anche questo. Un bambino, la prima parola di solito che dice mamma è anche un istinto. Uno ha la curiosità di sapere chi è sua mamma. Allora, se anche due uomini decidono di avere un figlio, dovrebbero anche far conoscere la mamma, non dovrebbe essere presente in una certa maniera. No, ma nell'eterologa non è possibile. Vabbè, lasciamo perdere, adesso non entriamo nel dettaglio. Grazie, Mirella. Elia, non dobbiamo spiegare nulla. Elia da Torino, buonasera. Diciamo che non no, è che Elia da Torino. Ma come no? No, Elia, dica. Sennò c'è confusione. Sì. E il conduttore? Sì, più o meno, sì, non sono lo spazzino, però con tutto il rispetto degli spazzini. Ecco. Cioè, non sto qui a pulire per terra, se vuole mi ci metto pure a pulire per terra. Scusi, lei chiama la radio e chiede, lei è il conduttore, ma chi cazzo devo essere? Scusi, il tecnico dietro qua, uno che è passato per caso, Elia, non mi faccia arrabbiare, su, abbia pazienza. Ah, ok, a posto, lei è il conduttore. È il conduttore, sì. Ma perché in Italia, come si dice, non si dice il conduttore in Italia? Niente, io l'ho chiamata, mi sono permesso. No, ma lei ha fatto benissimo. No, no, lei non mi disturba per niente, però non sono la donna di servizio qua dietro che passava. Che veramente, siccome stavo cucinando, Elia, no? Questo signor Elia da Torino stava cucinando, bene, allora? Stavo cucinando, però ho dovuto interrompere i miei servizi in cucina. Servizi in cucina, sì. Prego, dica. In quanto lei ha detto una grande puttanata. Cioè? Ok. Ok, io capisco che mo lei deve fare audience, però esaltare così tanto la figura dell'onorevole Antonio Razzi sembra un po' eccessivo. Allora, dire, ma sei amico mio, che devo fare? Sei diventato mio amico, mio fratello, praticamente, onorevole Razzi, che devo fare io? Diventato mio fratello, onorevole Razzi. Allora? Qual è il problema? Ha presentato un ottimo disegno di legge sulla prostituzione, meglio di tutti quelli presentati dagli altri, al di là delle ironie sul preservativo, sull'OAS, eccetera. E allora? Pronto! Cioè, è rimasto talmente pronto, male che è caduto. Ma lei non può fare così, però. Scusi un attimo, parla sempre lei, parla. Ma lei può parlare, non dice, sta zitto, è muto. Ho colpa io, scusi. Che colpa ho io se lei è muto, zitto? No, io sono una persona educata. No, ma lei non parla, questo è il problema. Sarà pure educato, però non parla, è diversa la cosa, non parla. Sì, ma lei mi deve dire parli e io poi parlo, no? E cioè mica io parlo, mica io allora, la posso interrompere. Però è educato. Ma lei, per essere educato, per adesso è educato. Dopodiché, se lei non pronuncia favella, se non parla, non possiamo nemmeno discutere. Ma lui aspetta che tu gli dai il là. Ma può dire quello non che vuole. Non si vuole sovrapporre. Vabbè, non che cosa le dà fastidio di Razzi a lei? Che cosa le dà fastidio di Razzi? Ok, a me di Razzi mi dà fastidio innanzitutto che parte una benché minima parte del mio stipendio gli venga data, serva per pagare lo stipendio. Vabbè, a lei io lo do il culo. A me mi dà fastidio che Razzi venga eletto, che deve fare? Gli abruzzesi hanno deciso così. Anzi, gli abruzzesi hanno deciso di votare la lista di Forza Italia del centro. Gli svizzeri. Prima gli svizzeri. Ma che so, ignorante adesso gli svizzeri che hanno votato per Razzi, scusi. Certo. Ma non è che gli svizzeri sono un'entità unica, cioè ci sono gli svizzeri e svizzeri, ci saranno gli imbecilli e ci saranno quelli intelligenti. Invece allora vedi, qui mo c'è da fare un altro discorso. Lei invece che conosce gli svizzeri, che cosa dice? Pronto? Cioè, posso parlare? Pronto. Sì, posso dire. Vabbè, questo è il manicomio, siamo al manicomio. Bravo però. No, come a manicomio? Io sto a casa mia, non al manicomio. No, ma questo che lei sia a casa sua, bene. Che casa sua assomigli al manicomio in questo momento, questa è un'altra cosa. Intanto mi riferiscono che un deputato leghista sta ascoltando la Zanzara preparando la maratona di Boston, come Gaia da Padova. Beh, di sarà il nostro amico. Il nostro amico. A lei non ce ne frega niente. Giustamente, questa però è un'osservazione corretta. Signor Cruciani, glielo dico perché lei senz'altro non ha mai fatto l'emigrante in vita sua. Che succede? Ma chi l'ha detto che non ha fatto? Degli emigranti con pronto? Sì, pronto? Dica, via, prosegua. Però la tecnica è buona, che quando lo interrompe lui ti è buonissima. Mi fa diventare pazzo, sì. Sì, perché lui dice pronto? E tu e ti fa impazzire. Questa è buonissima, questa tecnica. Lei è un Viet Cong della radio. Come i Viet Cong con gli americani. Lei sta facendo impazzire l'americano Nixon Cruciani. Nixon, boia. Cruciani, capito? E lei bravissimo, perché proprio lo vabbè, pronto? Elia, faccia Elia, le pause, bravissimo, no. Elia. Le stavo dicendo che di solito i migranti si sono portati con sé dal suo paese, nella fattispecie d'Italia, spesso il sud, eccetera, eccetera, e hanno preso, laddove sono andati, il peggio, d'accordo? Cioè, non so se lei ha reso l'idea. No, non ha reso nessuna idea, mi dispiace, arrivederci. Pronto? E il conduttore? Io voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. Vabbè dai, non esageriamo adesso, su, dai. Avete rotto il cazzo, no. Parlate sempre di froci, di razzi. C'erano sui Balcani che vengono. Te lo dico da amico. Fatti le cazzi tuoi. Allora, l'asta per le magliette di Razzi si è conclusa con oltre 3.000 euro incassati. E io ribadisco, anche per queste iniziative, Razzi meglio di Renzo Piano. Ecco. Anche per queste iniziative ha presentato un ottimo disegno di legge sulla legalizzazione della prostituzione. Ottimo. Uno in 5 anni, uno in quanti anni sono? Due legislature. Presentasse un disegno di legge a Renzo Piano su qualcosa. Presentasse pure lui, dai. Abbiamo con noi Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Carissimo, come stai? Carissimo addirittura, grazie. Beh, così preoccupi. Prima che arrivino le bastonate, uno deve un po'. Sono arrabbiato per le 4 giornate di squalifica a destra, ma insomma. Ecco, appunto, io di questo volevo parlare. E questo è l'argomento, anche Renzi si è occupato di questo, poi al lato delle considerazioni su destra ha parlato del destro, ma l'argomento della sua conferenza stampa era destro all'inizio, ha duettato con con Padoan. Avete qualcosa in comune con il nuovo ministro dell'economia? Un questo tipo... mi rattrista. Perché? Però io, ma perché insomma, Padoan non mi ispira simpatia. Il fatto che sia della Roma non avvantaggia la Roma. Ma come non avvantaggia? Come? Non l'ho mai visto come romanista, non era noto alle cronache come romanista. Ma noi siamo una grande squadra, possiamo anche sopportare. Scusi, Padoan, lei dovrebbe essere contento che una persona così importante, che ha un rango internazionale. No, io voglio tifosi simpatici. Padoan non mi sembra simpatico. Vabbè, c'ha questa faccia, sì, un po'. Sì, la faccia è proprio una cosa che mi copre. Andiamo a vederci la partita insieme. A lei gli verrebbe in mente di andare allo stadio con Padoan? Vabbè, scusi, tra Padoan e Storace, forse, non lo so, lei preferisce Storace. Più divertente Storace. Più divertente Storace. Sa quante risate lo si fa allo stadio. E allo stadio. Con e Storace. Con Cicchitto va ancora allo stadio? Sì. Sì, ogni tanto. Adesso, ma parlate allo stadio? Siamo, parlate? Parliamo anche, ieri l'ho chiamato, sì, perché lui è insorto sulla, sì, sentenza destro su Twitter. Se lei va a cercare Twitter, Cicchitto, sì, tanto ne fa pochi. Però io poi gli ho risposto con un Twitter, un po' dicendo, la devi fare. Lui ha fatto il famoso libro L'uso politico della giustizia, sì, l'ho invitato a scrivere il libro L'uso calcistico della giustizia, perché lui fa sempre le polemiche sulla giustizia, sì, e lui mi ha detto no, ma non banalizzare, questa è una cosa seria. E quindi Cicchitto mi invitava. Vi siete ritrovati su, almeno con la Roma siete andati ancora, sì, d'accordo? Sì, ma ci vediamo allo stadio, ci parliamo, ma guarda, ogni tanto, di calcio, di politica un po' meno, perché insomma, però parleremo anche di politica. Però scusi un attimo, io Gaspari, voglio capire una cosa adesso, sta sentenza su destro è una cosa, un complotto contro la Roma, non mi dica che pure lei fa parte, no, di questa scuola. No, perché si chiama destro, se si fosse chiamato sinistro lo avrebbero assolto. C'è questo pregiudizio anche della giustizia calcistica nei confronti della destra. Quattro giornate, sì, ce l'hanno con la destra, che dice destra, destra. Però non è una cosa contro la Roma questa qua, su, dai Gaspari, a parte destro. No, ma noi siamo abituati come romanisti, cioè? Siamo abituati come berlusconiani, come romanisti, avere la giustizia. Cioè lei ce l'ha tutte, Codo, lei ce l'ha tutte. Sì, ma proprio tutte le cose della giustizia, dal gol di Turone alla sentenza della Cassazione, è tutta una balsamatura, questa è la verità. Ma non mi dica veramente che lei pensa che quest'anno la Roma gli abbiano un po' anche rubacchiato? No. Siamo onesti, nessuno si aspettava una Roma così forte. È stata una bella Roma quest'anno, arriveremo secondi, andremo in Champions League, quindi all'inizio dell'anno non sapevamo nemmeno chi fosse Garcia, dobbiamo essere onesti, la Roma ci ha piacevolmente sorpreso e dobbiamo essere... Adesso va pure dalla Bignardi, incredibile, Chi? Domani Garcia ospita dall'area Bignardi delle invasioni barbariche, non lo sapeva questo, C'è un'invasione del campo, che fanno? Domani Garcia, il suo allenatore, Rudy Garcia, che pure lei all'inizio fece le battute che Sancho Panza là, dica la verità. Sono autocritico, è bravissimo, non lo conoscevamo, è una piacevole sorpresa, applausi. Mi pento di aver scritto quelle cose lì all'inizio. Non lo conoscevo, ero uno sconosciuto, quindi temevo una la debacle. Tante sole che a Roma ci sono state rifilate nel corso della storia. Invece è stata una sorpresa. Comunque domani va alle invasioni barbariche. Bariche, invitato so dalla Bignardi. Ma no, la trasmissione quella della Bignardi. No, non la conosce? Quella della Bignardi, non la conosce? Bignardi, la 7. È la moglie di Luca Sofri. Vabbè. Conosce il signor Sofri? Sì, perché Luca Sofri non si può sposare. Sono contento, auguri, non la conosco, non so. Non conosce ma la coppia, sì che la conosce. No, ma lo so, diciamo, non è il massimo della simpatia, insomma. Vedo che gli vanno male gli ascolti, quindi cerca con no, Garcia, anzi, sono, vanno male, con Garcia no, cerca di sollevarli. Come vanno male gli ascolti, anzi. Vanno maluccio. È male informato, Gasparri. 3 e mezzo, un po' una sciofeca, insomma, diciamo, una sciofeca. Ma come c'è? Guarda che sa tutto Gaspari degli ascolti. Ma non è vero che va male, peraltro. Ma non è vero. Ho fatto la legge, scusi, dico tutto. Ma perché devi difendere sempre tutti, Parenzo? Tutti, deve difendere tutti, ma non tutti. Io guardi, ho difeso anche Parenzo al suo esordio quando gli diedero una serata. Ma non è andata bene, però. No, dovevo fare un ciclo solo di 4 puntate, peraltro, e feci anche il 5%. È quindi chiaro, non è vero, come Abbado quando dirigeva poco, oppure come i grandi maestri, non si concede troppo, sennò si inflaziona. No, erano previste 4 puntate. La vedo da Telese, la vedo da Cruciani, messa in fila da Cruciani. Si insinua, sembra. Vabbè, mai come lei Gaspari, però, eh. Mai come proprio sobrio anche lei. A me non mi si vede, non mi si sente mai. Però comunque lei... Gaspari, basta. Questa sera sono dov'è? A linea notte su Rai 3. Allora, lei, diciamo la verità, ha iniziato questa mattina, se non ricordo male, a Radio Coffee Break. Radio anch'io e domani. Radio anch'io domani pure. E quando cazzo lavora? Ecco, questa è la cosa che scrivono molti, no? Allora, faccio un esempio di oggi. Tanto per entrare nel clima della trasmissione, ecco. Sono andato a Coffee Break a 9:30, che finisce alle 11. Sono andato in Senato. Sì. Abbiamo fatto discussioni, votazioni. Si è alzato a che ora? No, scusi, andiamo con la giornata di Gasparri, bellissima. Allora, lei si è alzato stamattina che alle 7. Io mi alzo alle 7:15. Benissimo. Ha preso un caffè, Oggi mi sono alzato prima, mi sono alzato alle 7 perché ho avuto il primo appuntamento alle 7:45 con delle persone che si occupano di telecomunicazioni, mi volevano parlare. Vabbè. Quindi ci siamo visti alle 8:15. Lobbisti, vabbè. No, non c'è niente di male, No, no, un istituto di ricerca, non un'azienda. Beh, poi di ricerca. Poi coffee break. Poi sono andato, sono passato dal Senato, ho letto i giornali che leggo tutte le mattine, non dare lo stampa. Sono andato a coffee break, ho finito coffee break che dalle 9:40 alle 11. Sì. Sono andato al Senato, siamo stati in aula, c'erano delle discussioni, votazioni. Sì. Poi sono stato al partito nel break verso le 2, ho visto Verdini, ho visto Toti. Abbiamo parlato un po' del partito, alle 3 insomma. Sì, sono sì. tornato al Senato, abbiamo avuto un pomeriggio di votazioni su alcune autorizzazioni. Intercettazioni di Verdini, sì. Abbiamo appena adesso finito. Ora sono sotto la sede del partito a Piazza San Lorenzo in Lucina, dove c'è una riunione dei giovani di Forza Italia. Ma lei quando frequenta sua moglie? Quando la vede? Quando la vede sua moglie? Mi hanno invitato a questa riunione. No, la vedo. Poi vado al forum delle famiglie verso le 8:30 ci passerò, perché è un'organizzazione che riunisce i parlamentari che difendono la famiglia. La famiglia, poi vado a casa, noi siamo a favore dei proci, figuriamoci un po'. Io invece sono per la famiglia. Poi vado a casa verso le 9:30 mangio qualcosa, sto con mia moglie e mia figlia, e alle 11:30 esco e vado a linea. Che vitaccia, che vitaccia. Poi domani mattina mi rialzo presto, alle 8:30 vado a Radio Città Futura. Pure dei comunisti. Dei comunisti, vado nella loro redazione a Piazza del Gesù. Poi vado in collegamento audio alle 9:30 con e poi la giornata prosegue. Poi vado in aula. Adesso basta. Adesso poi cominciamo da capo. Mamma mia, pubblicità, che vitaccia. Pubblicità, torniamo subito. Maurizio Gasparri, senatore Forza Italia, ci ha raccontato la sua giornata, tipo, diciamo la verità, se c'è un prezzemolino delle trasmissioni, a noi ci piace, per carità. Le clamorose dichiarazioni del senatore Giarrusso, 5 Stelle, ieri alla Zanzara. In un altro paese Berlusconi sarebbe già in galera. Giarrusso! Un altro paese sarebbe già in galera, diciamo la verità. Ma assolutamente sì, ma da tanti anni. Ma i c'era servizi? Anche mi pare un libro scritto in un altro paese, no? Che parlava proprio di Berlusconi, che diceva in un altro paese. Lei dice in un altro paese sarebbe già, non si discuterebbe di servizi sociali, domiciliari. Secondo lei l'età? Ma per favore. Renzi, erede di Gelli, senatore Giarrusso. Guardi, Gelli ha una pessima discendenza, dico che addirittura arrivi fino al punto di avere discendenti del taglio di Renzi, dico, io penso anche peggio. Però credo che Gasparri ricordi bene quello che ha detto la Littizzetto nella sua ultima puntata, credo ultima o penultima, non lo so, della trasmissione di Fazio Littizzetto. Gasparri è vicepresidente del Senato. Ma cosa c'entra? Ma che sta parlando delle istituzioni? Ma sai che quando io sono giù di corda, giù di morale, per darmi un tono penso, dai, credici, Gasparri è vicepresidente del Senato. Ce la puoi fare. Allora, caro Gasparri, ma Fazio che fa il giochetto con la Littizzetto è credibile, cioè quando gli dice ma è vicepresidente del Senato. Allora su Fazio c'era stato già un giudizio dell'autorità delle comunicazioni che ha certificato il bilancio, quindi io faccio un discorso e poi loro fanno come al solito un discorso unilaterale, perché la Littizzetto non è che prende in giro un po' uno un po' l'altro, ha fatto un elenco l'altra sera solo di esponenti del centrodestra. Comunque io quando guardo mia figlia sono felice, perché dico, pensa se fossi stato il padre della Littizzetto, mi sarei dovuto buttare dalla finestra. Addirittura? No. Sì, perché veramente un problema. Ma lei pensi, facciamo un discorso serio. Hanno fatto degli ascolti disastrosi per Sanremo. Vabbè, disastrosi adesso. Disastrosi, beh, rispetto alla trasmissione. Ma sì, vabbè, disastrosi. Ho capito, è come se la Juventus arrivava la seconda invece che prima. Hanno fatto perdere soldi all'azienda che per la pubblicità ha dovuto come dire, valutare diversamente gli spot che erano stati programmati con valore economico rapportato. Quindi sono persone che hanno fallito nel loro lavoro, punto. Sanremo è stato un disastro, un fatto per questo, l'azienda deciderà, hanno fatto dei danni all'azienda e stanno ancora lì a pontificare, quindi da un giudizio professionale da chi ha voluto allontanare Santoro, Biagi, eccetera, insomma, dopodiché la Rizzetto, se fossi il padre della Rizzetto mi sarei buttato dalla finestra. Ho capito, ma perché lei ha detto addirittura miserabile, mi sembra che abbia scritto, appunto, non hanno col sonno, quindi quello l'ho già anche scritto, sì, perché gente una persona da curare, cattiva, che vuol dire? Sono finti spiritosi, non ho nessuna stima della Rizzetto. Cioè, perché ce l'hanno proprio con lei? A parte che sa. Ma non lo so, perché io sono una persona che non è allineata agli iniziati della sinistra, non sono uno sciusciato dei comunisti come loro. E quindi loro hanno lì la pizzetta, puliscono le scarpe alla sinistra, sono di un'altra parte, di un'altra parrocchia. E loro a Sanremo hanno fatto un danno alla RAI. Vabbè, ma al di là di questo, ma non sono persone libere. Lei dice che sono non sono persone libere e hanno le loro idee. Il prossimo. Io mica, perché devono, se sono liberi di insultare, magari dalla RAI, uno gli può anche replicare. Loro dicono cazzate, io dico la verità. Flop Sanremo. Flop Sanremo, quello l'azienda deciderà. Detta da Sanremo perché hanno fatto un danno alla RAI. Quindi hanno fatto un danno al servizio pubblico, per cui io pago il canone, penso anche lei. Ma e da quando si preoccupa lei dei danni alla RAI, visto che avete cacciato in passato Santoro, Biagi? Io la RAI l'ho difesa, la difendo, perché se la RAI sta... Sì, come con l'editto Bulgaro. Le norme ne difendono il ruolo, e quindi io sono uno che difende la RAI. Santoro alla RAI faceva ascolti o no? Santoro alla RAI faceva ascolti quando gli avete chiuso il programma? Ma io non ho chiuso nessun programma, se poi un giudizio su Santoro è un militante. Ma avete politico, difeso Santoro quando è stato cacciato dalla RAI? Io non lo difendo. Facendo un danno a RAI 2? Santoro è un militante politico. Ma che c'entra militante politico? È un giornalista, allora, che fa ascolti. Santoro poi è di sinistra o di... Allora mi faccia parlare, Santoro ha portato sulla RAI Ciancimino Junior facendone un eroe, un'icona di mafia, era un truffatore che aveva il tritolo in casa, andrebbe denunciato per questo tipo di uso del servizio. Ma all'epoca pubblico. Era una notizia, Ciancimino. L'hanno intervistato tutti, caro Gaspari, siccome sei un giornalista anche tu, nella tua vita precedente, siccome sei un giornalista, perché sei un giornalista professionista anche tu, Ciancimino è una vergogna. Tu ricorderai che all'epoca lo intervistavano tutti. Su questa storia, allora lì c'è stata un'operazione fatta a tavolino. Allora Ruotolo e Ciancimino andavano in vacanza insieme. Ma loro c'entra? Hanno avuto la gestione di Ciancimino televisiva. Posso anche raccontare fatti. Questo è vero, dai, questo è vero. Ne hanno fatto un eroe insieme ad Ingroia. Ma era una notizia. Ma quale notizia? Era un bugiardo col tritolo in casa. Ciancimino Junior. Se io portassi uno. Ma non lo sapevano casa, Santoro e Ruotolo che c'era il tritolo in casa. Ma non lo controllare e verificare. L'hanno messo in televisione una sera che piangeva mentre parlava della mamma, una messa in scena vergognosa. Senta, ma a proposito di satira, eccetera. Parliamo dei fatti. A proposito di satira, ha raggirato gli italiani usando un delinquente come Ciancimino Junior. Ma era una notizia all'epoca, che delinquente? Ma che discorso, se lei porta un rapinatore in radio e ne fa un eroe e deve lei spera un eroe. Lei spera che non torni mai più alla RAI? Chi? Santoro. Ma non lo so, non è un problema mio. All'epoca Ciancimino era un collaboratore di giustizia. Parliamo di un'altra cosa. Brunetta ha querelato Vauro per alcune vignette. Per alcune vignette scritte. Ma perché Vauro esagera con alcune, anche con me esagera talvolta. Con Brunetta, ho capito, ma è il caso di querelare. Ma Brunetta, siamo nella Russia di Putin. Quando, scusa. Quando la Boldrini fa le polemiche sulla satira sessista, quando ha fatto l'imitazione della Boschi, è successo un casino. Infatti se uno sbagliato. Mette le vignette che Brunetta è un nano, un handicappato, è un disabile, è un mezzo matto, si può fare sempre. Ma no, allora lei no. Deve spiegare perché ci si indigna su una simpatica imitazione della Boschi che ha suscitato. Ma chi si indigna? Non mi indigno per niente, imitazioni nei confronti della televisione, e invece Brunetta viene irriso in maniera francamente. Cioè, secondo lei Vauro ha esagerato? Vauro ha esagerato. Ci sono state esagerazioni. La satira io l'accetto anch'io. Vabbè, ma ho capito, ma sull'altezza di Brunetta noi non abbiamo mai maramaldeggiato, però ormai maramaldeggiano un po' tutti. Cioè, sull'altezza. Però... Cioè, è come dire Gasparri, no? Insomma, Gasparri è una delle persone più citate dalla satira come l'emblema di una politica di un certo tipo, come dice c'è ancora Gasparri che parla, no? Sei come Gasparri. Parla. Ma lei, lei ha fatto una fortuna. Lei su queste cose qui ha costruito anche una carriera politica su queste cose, lo sa benissimo come funziona. Se mi consente su quello che faccio. Ho sopportato le persone che mi imitano, che mi prendono in giro, mi fanno conoscere di più. Però le voglio dire, si è reagito in maniera incredibile. dire, alla imitazione della Boldrino, all'imitazione della Boldrino. Non da parte quando nostra, la Boldrino certamente. Sulla rete gli hanno fatto un attacco, ha fatto cacciare il capo della polizia della Camera, lo sapete voi. Due volte sono stati destituiti i capi dell'ispettorato della polizia di Montecitorio per volontà del presidente della Camera. La prima volta ma quella è una follia della... sbagliato. Sugli attacchi della rete, però nessuno è insorto. Se l'avessi fatto io sarei sotto processo, per cui la Boschi non si può toccare, Di Brunetta si può dire tutto. Ma no, ma cioè, non si est modus in rebus. Secondo me si può dire la satira può dire tutto di tutti, sì, però sia Lucci, sia Lucci che Bauro, sia Lucci che Bauro possono fare tutto. Dopo si offende, questo è vero. No, anch'io c'è un limite che è stato superato con Brunetta, su. Ma comunque, caro Gasparri, devo dare ragione a Gasparri su questo. Cioè, cosa? Quale limite ha ragione Gasparri, cioè sui difetti, ho capito, Bauro, sui difetti Bauro fisici non c'è ironia, non fa ridere. Ragazzi, è roba nano, da nazisti. Il nano Brunetta, il nano Berlusconi. È roba ma da propaganda. Ma pure Berlusconi fascista. È stato sempre dipinto come un nano e nessuno ha detto mai nulla. Dai, infatti, su. Ma no, infatti con Brunetta c'è un accanimento talvolta, mi consenta proprio davvero esagerato, su. Ma io non credo. Renato anche reattivo, l'altro giorno per esempio ha lasciato una trasmissione televisiva dicendo a Greco, signor conduttore, ma si è esagerato, lì, dai, lì poteva rimanere, era stato solo interrotto una volta, sì, io lì per esempio non me ne sarei andato, però quando reagisce a una insistita denigrazione che non è giustificata. Ma in quel caso non è successo nulla, tra l'altro nessuno gli ha dato né del nano né del... No, in quel caso secondo me io non me ne sarei andato al posto suo. Ma perché lui vuole essere intervistato da solo, gli avevano detto questo, eccetera, vabbè, ma chi se ne frega. Deve anche accettare l'interruzione. Va bene, se però si fa come i grillini che si fanno mettere nell'acquario in televisione. Che no? Fanno? Che hanno sì, i grillini sì. Si fanno mettere nell'acquario. Io mi meraviglio dei conduttori che invece accettano, che accettano questa, questa cosa qui. Tu vai al dibattito, ti metti nell'arena con gli altri, come facciamo tutti. Gasparri, ma la Meloni ha avuto un battibecco, ho visto su Twitter per questa versione, no, del Photoshop. Rivolto in generale, no, no, non è la rivolta in generale, diciamo la verità. Beh, no, non nei simboli, tutti lo mettono. Pensi che quelli di Scelta Civica hanno messo il nome di un belga, l'ha visto il simbolo di Scelta Civica che si chiama Scelta Europea. La Meloni mette il nome, Alfano mette il nome, Scelta Civica mette il nome di un no, ma lei ha parlato anche di un'altra cosa, ha parlato del Photoshop. Del certo. Photoshop, del l'ho Photoshop. Letto su internet, su Twitter, e mi sembra che tutti usino foto ritoccate nei manifesti elettorali, quindi accusavano Berlusconi della cazzo davanti alla telecamera, eccetera. Mi pare che chi più chi meno questi manifesti che c'erano in giro sono un po' ritoccati, ma no, no, sono ritoccatissimi. Uno lo ammette, punto e basta. Le foto sui manifesti è normale. E invece loro, invece loro sono molto piccati per quello che lei ha scritto, Crosetto. Ma cioè si spicchino, perché poi alla fine, cioè, hanno criticato Berlusconi per la personalizzazione, per sì, le immagini, sì, le foto, i nomi, e finiscono tutti a berlusconeggiare senza essere Berlusconi. E quindi lo sa cosa ha scritto la Meloni? Ha scritto significa proprio che sono una cozza, se proprio eh? La Meloni ha scritto significa proprio che sono una cozza. È una battuta spiritosa, quindi una reazione simpatica. Ma simpatica, insomma, dai, tu, cioè, ma non lo so, ma io ho letto che c'era una foto ritoccata, quindi mi pare che anche a me mi hanno fatto adesso la foto, sì, ho visto, truccandomi, ho visto, come Giorgio Clooney, è uno scherzo, va bene, insomma, no? Ma quello va ammesso, uno fa la se foto uno, ritoccata. Se uno ritocca significa che c'è qualcosa da ritoccare o no? Beh. Ma no, perché si cerca sempre nelle foto, sui manifesti, di apparire più belli di come si sia, e quindi credo che lo facciano tutti. Beh, però effettivamente le foto della Meloni sono un po', sono molto ritoccate. Sono... Questo lo sta dicendo lei. No, lo dico io. Non le ho viste bene, però tutti lo dicono. La foto ritoccata è normale. Male. Allora uno dovrebbe dire, sì, ho fatto come tutti, ho fatto la foto ritoccata. Punto, finisce la storia. O no? Sì, solo sì. Che se uno si picca vuol dire che è colto nel... perché criticavano per l'uso del nome. Sì, Berlusconi. Cioè. Vabbè, ognuno ha un leader, dai, ma non è che Fratelli d'Italia, non è che Fratelli d'Italia criticava Berlusconi perché per il partito. C'era molto questo discorso, se lo faccio dire da me, la personalizzazione, i nomi, i simboli, c'erano discussioni accese su queste cose. Comunque Feltri ha scritto che lei ha distrutto questo paese, mi sembra di capire. Feltri ha scritto una volta in una rispondendo, sì, ho visto, che lei è uno di quelli che ha distrutto. Una cosa, non so perché, qual era la discussione. Sui Veneti, sui Veneti, sui Veneti. Ma perché ho detto, pensi un po', Feltri si è arrabbiato perché ho detto che non hanno partecipato 2 milioni di veneti al referendum. Secondo lei hanno partecipato 2 milioni di veneti? Ma non lo so, al quelli dicono di sì, che è certificata. Ma lei è uno che sta sull'informazione, lo sa, quindi non è vero. Ribadisco, i problemi che hanno sollevato sono fondati, le cifre che hanno dichiarato sono fasulle. Poi se Feltri si offende, me ne farò una ragione. Bisogna sono da verificare. Diciamo, comunque, Renzi ha svoltato. Renzi ha svoltato. Abitano 3 milioni e 700 mila persone. Non è possibile possibile che 2 milioni rotti abbiano partecipato a quel referendum, le dunque, assicuro. Renzi ha svoltato, ha candidato 5 donne capolista. 5 donne. È libero di farlo, ha fatto una mossa d'immagine. Una buffonata, dai, diciamolo, io l'ho definito. No, una mossa d'immagine, lui punta molto sull'immagine, ha fatto una scelta. Ma non mi dica che è d'accordo, lei che è contro le quote rosse è d'accordo col mettere 5 donne. Io sono contro l'obbligo di mettere il ma 5 donne capolista, è una mossa demagogica che non serve a niente, dai, su. Una... No, questo non me lo farà dire. Perché uno è libero nel proprio partito di fare quello che vuole. Se anche noi avessimo da mettere 5 donne che fossero le più adatte, le metteremmo, e non credo che faremo questo. Ma io non ho un pregiudizio, sono contro l'imposizione di obbligo. Eccolo qua, Giorgio Cluney, vota Gasparri, più in Italia in Europa, meno Europa in Italia. Con lei che insomma assomiglia adesso, diciamo. Ma non assomiglia a Giorgio Cluney. Con i capelli tirati su. Qual è la differenza? Che a me mi fanno il trucchetto per fare. Ma lei si sente bello, Gasparri? Si sente bello, un bell'uomo? Mentre no, non sono un bell'uomo. Mentre quelli. Che ha detto uno sbrego? Che ha detto uno sbrego? Che ha detto? Non sono bello, sono bruttarello. Sono bruttarello, bruttarello. Però quelli invece si toccano le foto e credono di essere fighi e belli, complimenti. Ma perché non lo ammettono? Cioè, che c'è di male? No, ma infatti non c'è niente di male, dovrebbero ammettere. Faccio. È meglio a naturale o ritoccata la Meloni? Nessuno si ritocca sempre meglio, è comunque bella anche al naturale, però ha voluto ritoccarsi evidentemente perché così si usa fare nella grafica, nei manifesti, nei cartelloni. Sì, è una prassi che seguono tutti quelli che ostentano il proprio viso e che criticavano quelli che facevano abbiamo i partiti capito, personali abbiamo... con la faccia e coi nomi. Poi ma sì, ma è normale. Con le facce e coi nomi. E non è normale perché se uno prima criticava questo uso e poi lo pratica, dovrebbe dire ho sbagliato quando criticavo Berlusconi. Vabbè. Ma dipende, se uno proprio si trasforma in altra persona, non è il caso della Meloni, perché non è il caso della Meloni. Altro discorso, no, ho fatto un altro parezzo, non hai capito. No, io ho capito perfettamente di quelli che criticavano Berlusconi, ho capito perfettamente. Personali con le facce e nomi, punto. Certo. È una constatazione, lo posso dire o no? E se qualcuno si arrabbia lo dico lo stesso, che me frega. A presto. Ciao, saluti. La zanzara è quell'odioso insetto. Pronto? E il conduttore? Venire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta. Allora, se volete incazzarvi, vi ripropongo una testimonianza, quella di Valentina Vezzali, caro Parenzo. Valentina Vezzali è un deputato di Scelta Civica, oltre che una famosissima fiorettista, sì, olimpionica, campionessa del mondo, eccetera, eccetera. Intercettata da quelli della gabbia, ci spiega come in realtà non abbia fatto praticamente per mesi una bene amata mazza alla Camera, ma non solo per la questione della maternità, semplicemente perché aveva un impegno, quello di fare la scherma, di fare la schermidice, cioè di fare la campionessa. Allora, calma prima di candidare certi personaggi che in testa hanno altro. Senti la Vezzali. Ma lei a quest'ora non dovrebbe essere alla Camera? Domani sono in partenza per una gara e sono stata male, ho avuto la febbre, quindi... Nei mesi scorsi è finita sulle pagine di molti giornali perché è accusata di assenteismo. In un anno di legislatura in Parlamento si è vista poco. C'è più del 50% di assenso in Parlamento. La domanda è perché non si dimette? Allora, sono stata in maternità perché ho partorito il 16 maggio e quindi ho usufruito della maternità. Non mi hanno consentito di andare a Roma fino a praticamente... a quando è nato mio figlio, poi ho soffrito della maternità, a settembre sono tornata. Ma proprio in quei giorni si votava alla Camera il decreto del fare e lei risultava in missione per maternità. La missione parlamentare comprende la malattia, la maternità e la missione per motivi politici. Era chiuso tutto nella missione, il regolamento della Camera prevede questo. Ma dato che lei era in Ungheria, perché ha preso la missione? Quello di andare in Ungheria poi di fare il mondiale, quando potevo magari andarmene alle Maldive a prendere il sole, magari nessuno avrebbe detto nulla. Non ci risponde in modo diretto, riproviamo a riformulare la domanda. Poi è andata in Ungheria in quel periodo e ha preso anche lì la missione. Ma come sportiva, cioè, io... La missione significa che ha preso l'indennizzo della diaria. Come sportiva io ci terrei a tenerlo, noi abbiamo dei premi. Neanche questa volta ci risponde in modo diretto, riformuliamo ancora una volta la domanda. Perché ha preso questa... E quindi città, perché lei ha detto che percepisco in base ai miei risultati. Poi, perché il regolamento della Camera prevede, come per le donne che fanno altri lavori, che la donna che sta a casa per aver fatto un figlio, comunque l'indennità la ricevi. Vezzali, capite? Cioè uno va ai mondiali in Ungheria e risulta in missione. Mondiali di scherma. Gravidanza, ah, capito? Sì, questo è brutto. Dai, su, e dai. Dai. Understand? Antonella da Brescia, anzi Paolo da Milano, dai Paolo. Pronto? Sì, dici, dimmi, sì, dimmi. Buonasera Luciano. Senta, io volevo vivamente ringraziarlo perché ha risolto il mio grosso problema, è da anni che avevo questo perché? Problema. E grazie a lei e al pappagallo sono sì. riuscito veramente a risolvere i miei problemi di stitichezza. Cioè, riesci, anni e anni. Riesci ad andare cagare. A cagare? No, non riuscivo. Non riuscivo. Ah, adesso cioè, riesci ad andare a cagare? Visto. Prego? Adesso riesci ad andare a cagare? Adesso, come esco, accendo la radio in macchina, sento il primo stimolo, appena poi il pappagallo apre, devo correre, appena apre bocca il pappagallo, è... corri, arrivo a casa quasi, capito? Quasi me la faccio addosso, veramente. Beh, è bello ringraziarmi anche perché erano anni. Funzione. Cioè, quando Parenzo no. parla, tu sei pronto a cagare, giusto? Ma di corpo, diciamo, dai. No, appena parla Parenzo, proprio, devo quasi, cioè, avessi un tappo. Io sono andato avanti anni e anni con Perette, Gutalax. Io vi ringrazio, siete la mia medicina. Beh, io sono molto contento di averti fatto. Io penso che lei dovrebbe essere chiamato Gutalax, no, soprattutto il pappagallo lì a fianco. Parenzo, si deve ringraziare perché risparmia un sacco di soldi lei. Pappa Gutalax. Pronto? Un attimo. Ah. Antonella da Brescia. Sì, buonasera Cuciani. Dimmi. Buonasera. Anzi, ormai ti dico ciao perché ti ascolto talmente tanto, anche arrivare dopo l'intervento del precedente ascoltatore mi imbarazza un pochettino. Comunque io volevo commentare quanto ha detto Mario Di Nolfi, che condivido in pieno. Perché io sono madre e ti assicuro che non è un diritto diventare madre, non è un diritto, e quando ci sono i figli bisogna veramente seguirli, cioè il fatto di fare un bambino non è una questione di ovociti, è un progetto ben più grande, appunto, e allora... molto faticoso. Secondo me ridurlo tutto a sentenze dei giudici, spermatozoidi uno dell'altro, una mamma in affitto che peraltro è povera, perché andare in India a prendere l'utero di una donna povera, io fossi una donna occidentale mi vergognerei a morte, perché approfitto della povertà degli altri. Ma che vuol dire approfitto della povertà degli altri? E invece sì, perché queste donne non ti diranno mai di no, perché hanno bisogno di soldi, e dire a 20 anni al tuo bambino che è nato in questo modo non è bello, non è nemmeno dignitoso. Ma che umanità stiamo costruendo, Giuseppe, credimi, che umanità. Ma che c'entra l'umanità? Io sono molto, invece sì, credimi che c'entra tantissimo. Beh, l'aspetto dovuto in affitto, certo. Io condivido con Mario, è naturale fare figli, uomo, donna. Ho capito, ma se uno non li può avere e li vuole comunque crescere bene, li vuole allevare bene, li vuole far crescere bene. Giuseppe, non è. Ma li adotta benissimo, li adotta. Un bambino nel modo naturale. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che. Ho capito, ma non è un diritto universale. Ma ci sono tanti orfanotrofi all'estero pieni. Cioè, e poi perché noi abbiamo l'aborto? Gente che non vuole i figli li abortisce. Gente che li vuole non li ha, li va a prendere. Un attimo. Pronto? Nicola? No, è Rivarolo. Sono Cruciani, ciao. Mi passi Vittorio un secondo? Vittorio, circonferenza, Foggia, sta firmando dei libri, non riesce a farti. Dov'è? Dov'è? A Foggia siamo. A Foggia siete. Vabbè, passami un secondo. No, ma non riesco, cioè sono. Ci sta parlando? Che sta facendo? Sì, sta firmando dei libri lì, non riesco, non fa niente, da parte io sono distante anche da lui. Vabbè. Fra quanto si libera secondo te? 5 minuti? No, vorrà mezz'oretta, è pieno attorniato di gente. Attorniato di gente. A Foggia. Ma che sì. come cazzo hai fatto ad andare a Foggia oggi con la macchina? Una cosa pazzesca. E dai, poi dove andate stasera? Sta presentando il libro. Non so perché. Ma quanti domani chilometri? Siamo Urbino, domani siamo a Urbino, però non so. Ma quanti chilometri fai a settimana, scusa? Tanti ne facciamo. Ma tipo, quanti ne fai? Dipende. Minimo sono 3-4 mila. 3-4 mila a settimana. Vabbè. Difficile farne meno. Che Dio sia con voi. Arrivederci. Date piano. Ciao. Non mi mordere il dito. Camillo da Monza. Ho analizzato la questione. Aspetta, eh? Che dopo c'ho. No, ho analizzato la questione delle parole. Il sostantivo maschile singolare utilizzato nel corso della trasmissione. È considerato dal vocabolario italiano volgare. Ma quale? E quale? Il sostantivo maschile quale sarebbe? Singolare. Quale sarebbe? Utilizzato nel corso della trasmissione. È considerato volgare. Vabbè, offensivo. Benissimo. Camillo sinonimo di omosessuale. Vabbè. È considerato Frocio, sì. Dispregiativo. Ma quando mai? Ma quando mai? Dove l'hai letto? Sul dai. Vocabolario. Senti, io dico Frocio quanto mi pare. Sul e non lo dico in modo dispregiativo. Sono a favore di tutte le cose possibili: matrimonio, adozione. Dunque, questo non mi rompere vale la parola. Camillo da Monza. Io parlo sostantivo. Quando mi va, parlo di Froci. Capito? Come mi pare. Prenditela col vocabolario. Camillo con la lingua da Monza, italiana. Dai, su. Bravo Cruciani. Io volevo dire perché ti tieni a fianco a te un opinionista, perché quello non è un giornalista, è un opinionista. Vabbè, ma che perché vuol dire avere anche un opinione? Per la sinistra non è per niente obiettivo. Ma io non nemmeno sono obiettivo, ma nemmeno io sono obiettivo. Non guarda. È obiettivo. Ma nemmeno quello io lo sono. Cosa vuol sinistra, dire obiettivo? Tutto ciò che fa la sinistra va bene. Ma non ti vergogni. Ma non è vero, ma manco ma per niente. Ma non hai un minimo di dignità, un minimo. Ma cosa ho detto della sinistra? Rispondi all'ascoltatore. No, rispondo nel merito se c'è una questione. Rispondi che ti dà della che cosa? Della sinistra. Rispondi. Ma non sono la che della sinistra di niente. Dico quel che penso, quando la sinistra sbaglia dico che sbaglia. Ma non è vero, dici tante stronzate. Vabbè, questo può essere, questa è un'opinione sua, questa è un'opinione sua. Pensi a quella che dice lei e quindi se ne faccia una ragione a quello che dice lei. Le do del lei anch'io allora, visto che voglio fare. No, pensa, non c'è nessun problema, pensa a quelle che dici tu. No, lei è un opinionista, è come. Ma nel merito, quando Renzi o la sinistra, quella che lei chiama genericamente sinistra, ma lo fai parlare o no? Camillo, che cosa hai da rimproverare a Parenzo? Devo replicare. Perché qualsiasi cosa tu dici, tu sei un giornalista serio, perché se devi andare a mandare a qualcuno uno di destra o uno di sinistra, lo fai. E allora? Parenzo? Perché lui, solo perché sono di sinistra, hanno sempre ragione. Ma assolutamente no. Ma non ti vergogni. Assolutamente. Camillo, no. Ciao. Rosa, se va bene rosa. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Il mondo che fa cagare ad Adinolfi è quello in cui tutti possono avere figli da tutti. I single possono avere figli, le coppie gay possono avere figli, eccetera, eccetera. E non è quello che ha detto la Corte Costituzionale. Ma oddio, però, che palle che sei, mamma mia. Ma chi se ne frega? Stavo spiegando un altro concetto. Non c'è bisogno che spieghi questa roba. Fai passare messaggi falsi. Senti come se le danno, cicchitto. Non c'è niente su Toti, eh? Non c'è niente di peggio dei maggiordomi che cercano di fare la voce grossa per darsi un contegno e svolgere un ruolo superiore al loro livello. È il caso del dottor Toti, che insulta in modo volgare Alfano e il nuovo centrodestra. Ci auguriamo che Berlusconi abbia qualcosa di meglio da mettere in campo per attaccarci. In effetti, su questo terreno, Daniela Santanchè sa svolgere un ruolo di provocazione politica molto meglio di questo mediocre lacchè. Cioè gli ha dato il maggiordomo del lacchè, meglio la Santanchè. Cicchitto su Giovanni Toti. Fate voi. Alessandro da Milano. Poi un grande ospite, un grandissimo ospite. Parenzo, preparati. Stai un po' zitto e preparati. No, non è lei, però lei è grande comunque. Allora? No, una cosa brevissima. Ho sentito prima in macchina la difesa, se mi metto triste, ridicola di Gasparri di Brunetta, cioè così posso, questo sono sentito solamente un pezzo. Brunetta è la persona che secondo me dovrebbe ringraziare il cielo che non riceve 100.000 volte gli improperi rispetto alla satira, secondo me anche molto gentile nei suoi confronti, perché lui è la persona più sgradevole, aggressiva, ignorante, maleducata, vergognosa che c'è, e secondo me si fa forza del suo difetto fisico per essere più aggressivo di quello che dovrebbe essere, pensando su questo non credo dai, assolutamente. Comunque solo questo volevo esprimere, perché sinceramente vedere Gasparri che difende Brunetta onestamente mi sembrava veramente il massimo. No, ma il problema è che la satira di Vauro nei confronti di Brunetta ma si attacca necessariamente alla questione dell'altezza. Ma qual è il problema? Non ho capito qual è il problema. Brunetta quanto è alto? Ma non lo so. No. Allora, di che sta a parlare? No, io sono d'accordo con lei. Dopodiché, attenzione, una cosa è la satira, una cosa è la satira fatta da Mauro sull'altezza di Brunetta, una cosa sono alcune frasi dette serio qua, semiserie, dette da alcuni in certi contesti, ricordo una di Dario Fo sull'altezza di Brunetta, in cui... Ok, e sono d'accordo con lei. Quello che però secondo me è anche vero è che uno ha un po' quello che raccoglie. Chi si viene a vento raccoglie tempesta, sinceramente. Lui non è che faccia di tanto per essere più simpatico, più gentile, no? E allora a un certo punto te la sei pure cercata. Cioè io Brunetta non incontrassi per strada, non è che gli stringere la mano, ecco. Però, perché non le stringerebbe la mano, scusi? Perché è una persona che trovo insopportabile, della quale io contesto le cose. Capito, però uno non è che può essere razzista sull'altezza di Brunetta mano, semplicemente perché è insopportabile. Beh, non gli stringo la mano, non gli ho detto che di meno. Appunto, è una persona che io detesto profondamente, perché essendo mediamente intelligente sfrutta questa cosa per fare politica in un modo, secondo me, scandaloso. Io sono di destra, quindi vabbè, comunque lasciamo stare. Però è una persona che sente a me, quando c'è un ribrezzo fisico, ogni volta lo sento in televisione, mi farebbe veramente, non lo so, spaccare. Cretino! Cretino! Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo? Im! Elo? Im! Mai al mondo verrà la fine, come sempre continuerà. Mai al mondo verrà la fine. Caro Parenzo, te ne sarai accorto dalla, dalla canzone. C'è un grande ritorno alla Zanzara per dirci che fine farà Berlusconi. Servizi sociali, arresti domiciliari, certo. Oppure carcere, perché certo, è sempre possibile, anche se è molto molto certo, difficile. Vi benediciamo e salutiamo tutti. Ma stai zitto, oh, lo lasci parlare un attimo o no? Sì, sì, vedrai. Divino, buonasera, Divino Telme con senti noi. Vi salutiamo, ecco, e benediciamo da Poltofino, amatissimi figli, come sempre siamo al lavoro, sì, stiamo in ma questo momento accudendo al nostro prossimo libro che presenteremo a maggio a Roma, sì, edito da Aracne, Aracne, Demoni, Angeli e Dei. Com'è che si intitola Divino, scusi? Il titolo, salvo i pensamenti, sì, Demoni, Angeli e Dei nel pensiero di Agostino e del Divino. Ma quale sarebbe il Divino? Lei? Certo. Noi naturalmente, ma che noi, esaminiamo, commentiamo, sì, diamo sì giudizi, sì, al certo di là di ogni ragionevole. Ma quanto dubbio, vendono i suoi molto, libri? Molto vendono. Il libro scaturisce dalla nostra ultima tesi sì, specialistica certo, discussa il 15 gennaio all'Università di Genova sullo stesso argomento. Precisiamo, che numero di laurea è Divino? Per ora la sesta. Ma che servono tutte ste lauree? Divi, io vorrei capire. Cioè, vorrei capire una cosa. Tutte ste lauree. La mente ci rendiamo conto che quell'insulso omuncolo senza alte né tante non può capirlo, ma altri certamente lo capiscono. Sì, certo. La mente è un fiore, va annaffiato. Annaffiato, sì. O se si preferisce una pianticella che va comunque ben curata e protetta. Sì. E deve essere sempre tenuta in esercizio. Vabbè, d'accordo, non può, ma non c'è essere abbandonata. No, per carità, però Divi, io dico una cosa. Se l'abbandona, ma... chissà cosa succede. No, però dico una cosa: uno non è che per forza deve prendere la laurea per coltivare, no? Per coltivare la mente, la testa. Io dico una cosa: sei laurea e basta. A un certo punto, in linea teorica, il cerebro può essere il cervello sviluppato, ma anche con metodi alternativi, però attenzione. I metodi alternativi si vanno gradatamente riducendo, specialmente sì, in questo paese dove il livello culturale è spaventosamente basso. È basso. Ci riferiamo per esempio a certi telegiornali dove è evidente che sì, questi cosiddetti sì giornalisti in realtà pennivendoli non sanno neppure cosa sia il congiuntivo, oppure ancora ieri sera anche uomini politici, quelli poi peggio che andò di notte, lo confondono con il condizionale, sì, non ci sono, capito, regole Parenzo, che vengano seguite, sì, non si sa cos'è la consecutio no temporum, siamo ad un livello di barbarie, quindi è chiaro che certo, se cioè, ma lei per esempio in Parlamento, Divino, scusi, che è l'università sì, certo, italiana certo, non è che ci resti poi molto, no, però è, io dico è... Divino, lei starebbe in Parlamento, ci starebbe alla grande in al posto di qualche, cioè, perché non si fa, è ovvio, ma è facile essere alla grande in Parlamento, ma qualcuno le ha mai offerto, qualcuno le ha mai offerto, parlamentari, qualcuno le ha mai offerto una candidatura, Divino? Ma questo è un discorso delicato. Delicato, molto delicato. Sì, è risposta. Un discorso delicato. Nessuno è la Il problema risposta, è che in Italia un malato non di sappiamo mente, se in altri paesi succede lo stesso, ma comunque in Italia, per fare carriera in politica bisogna essere, e questo è evidente, considerevolmente propensi all'arte del ruffianaggio. Arte quindi bisogna leccare. Poi basta vedere un po', ascoltare certi commenti di certi ruffianoni che quasi tutte le sere popolano i telegiornali Senta Divino, allora andiamo al sodo. Berlusconi che fine farà? Lei ha fatto un vaticinio in queste ore, sta studiando le carte? Che carte? Ma noi abbiamo esaminato la richiesta di alcune agenzie di stampa, abbiamo esaminato soprattutto i futuri equilibri politici. No, ma quello non io sto dicendo in particolare il quesito che ci è stato più richiesto, sollecitato perché in effetti ci sembra il quesito più interessante, ne parlano tutti da mesi, i contraccolpi che potrà avere e quale sarà il risultato delle prossime elezioni europee, naturalmente. No, però io le ho chiesto soprattutto di Berlusconi, servizi sociali o domiciliari? Avevamo già detto a Riccardo Poli che questa è appunto, alla luce della sua evidente insulsazione, l'unica domanda a cui non avremmo certamente risposto, perché non ce ne potrebbe calere di meno. Perché non sa rispondere, molto semplice, ai suoi vaticini. La decisione dei giudici è irrilevante Mago, il cavaliere vada domiciliari le prossime europee. Siccome gli hai chiesto una cosa troppo precisa, ti dico io come stanno le cose. Lui è fuori gioco comunque. Vabbè, questo lo sappiamo senza ancora tema. Più importante, più importante è che quando si andrà a vedere come in Italia si è votato per le europee, si vedrà che Forza Italia passa dal secondo al terzo ma posto. Questo lo dicono tutti, l'hanno scritto sui giornali. Mamma mia, ma Baggianate è scritto sui giornali da settimane. Divino, Mago, ma fate tacere i serpenti in testa. Avrai sette lauree, ma non capisci un cavolo. Di grammatica, ripeti di quello che c'è scritto sui giornali. Mamma prima di mia, poter parlare con noi, sembrava che dicesse una roba. Poi alla domanda specifica, ma stai zitto con i serpenti in testa. Alla domanda. Domanda specifica del signor Cruciani. Scusami, Otelmino. Otelmino, alla domanda specifica del signor Cruciani. Stai zitto, Otelma. Alla domanda. Ma torna nella spelonca lì dove stai ridotto. Fallo parlare. Tu ne sei la dimostrazione. Malvissuto che sei, guarda, malvissuto che sei. Alla domanda specifica del signor Cruciani, domiciliari. Oppure hai detto noi siamo questo collegamento precisando a Riccardo Poli. Ma che lascia stare Poli. Questa stupidissima domanda perché è precisa, perché è precisa. Perché è precisa. Noi non sprechiamo il nostro tempo per delle stupidaggini. Vabbè, comunque la domanda è precisa. A noi sono state richieste ben altre cose. Chi vincerà? E la risposta è quella. Qual è? Al primo posto il PD, al secondo Grillo, al terzo Forza Italia. C'è scritto che sui giornali. C'è scritto sui giornali. Quale divinazione hai fatto? Anche perché ma che cavolo di divinazione è? Ma scusami, ma guarda te. Ma chi sono? Berlusconi, Candida, Vanagloriosi e Ruffiani? Beh, guarda. Attorno a lui, evidente. Toti pure. Toti. L'unico cavallo di razza che c'era. Sì. Era Alfano, che adesso non c'è più. Vabbè, era comunque il vaticinio di Otelma è non questo. È un vaticinio, è una lettura dei giornali. Ma no, il vaticinio, ma io non lo so. Allora, adesso io leggo il Corriere.it e ti dico l'ex palco di del PDL, insomma, sai come ragiona questo? Allora, scusa, Otelma, scusami, no, fammi dire questa cosa. Come si chiama? Toti. Il consigliere politico semplicemente va a sentire quello che il Silvio gli dice di dire e lo dice. dice. Allora, Otelma, faccio allora, io un vaticino, guarda, te lo faccio io il vaticino. Lui che non ne ha nella mente di concetti. Noi pensiamo, noi parenzi, pensiamo che forse sarà condannato all'ergastolo per la clinica degli orrori, il signor Brega Massone per la clinica Santa Rita. Scusa, ma c'è scritto sul Corriere Pompeit, è appena uscita, è appena uscita la notizia. Noi pensiamo che Renzi in questo momento ancora ha un po' di consenso, però qualora non dovesse dare gli 80 euro in busta paga, forse qualcosa perderà. Ecco il vaticinio che noi facciamo a questa augusta emittente. Effettivamente, quando si sente parlare questo individuo, ma che voi ospitate, niente, così pagate, fai tu, sì, mamma, ebbene, si ha la netta sensazione, sì, che l'uomo di Neanderthal è ancora tra noi. Sì, certo. Non so, sì, se ci fate, sì, caso anche negli autobus, nei taxi, sì, nelle piazze. Sì, sì. Ogni tanto c'è qualche figura che ispira, certo, questo concetto. L'uomo di Neanderthal. Ma quando vedete e sentite questo individuo, capite che è la pura verità. Sì. Grazie divino, a presto. Prego. Se noi diciamo di, voi rispondete noi vino. Noi pensiamo di, che il PD candiderà cinque donne nelle cinque circoscrizioni. Lo ha deciso oggi Renzi. Noi crediamo. Ho parlato con Poli. La domanda servizi sociali non è pertinente. Perché non sai rispondere. Precisa, per forza. Edoardo da Milano. Semplicemente tirare le orecchie all'onorevole Gasparri, perché lui che è tanto bravo a criticare tutti di tutto e di più, però non dobbiamo dimenticare. Vittorio? Sì, un attimo. Sì. Ma chi è questa gente che risponde? Sì. Aspetta, aspetta. Vittorio Cruciani. Sì. Vittorio, ciao, ciao, scusa. Cioè, è tardi, ma dobbiamo quasi chiudere. Ma Bonito Oliva, hai letto Bonito Oliva? No, me l'ha detto Sicconi. Sì, ha una buona ragione, qualunque cosa abbia detto, per querelarlo, perché lui querelò me. Lui ha detto che di arte non sai un cazzo, di arte contemporanea, praticamente sei un ignorante di arte contemporanea. Sì, questo sì, ha ragione, l'arte contemporanea infatti non esiste, esiste l'arte, e l'arte contemporanea è un momento dell'arte. Dice... lui che non ha idea, l'arte contemporanea non è un genere a parte. Roberto Longhi si è occupato di Giotto, sì, e di Morandi, che era suo coetaneo. Quando uno parla di arte contemporanea è perché ignora l'arte antica, sì, e pensa di fare un genere di quella che è... Vabbè, aspetta, lui ha detto come critico d'arte contemporanea è una nullità, sì, invece è uno come tanti, è un conoscitore dell'arte antica, non ha dato nessun contributo importante, non c'è nessun saggio o libro suo che si ricordi, i miei sono stati tradotti anche in Cina, eccetera, eccetera. Vabbè. I miei sono stati tradotti pure in Cina, in America... Sì. Di lui non si ricorda niente perché quello che scrive non si capisce. Per il resto, di conoscitori di arte antica ce ne sono pochi, ma lui non sa cos'è l'arte contemporanea, quindi ne parla in modo abusivo, perché l'arte contemporanea è tutta l'arte ed è contemporaneo anche Giotto, sono contemporanei Bronte di Vabbè, Ghiaccio. Ma che c'ha? Lui non lo sa, lo ignora. Vabbè, comunque ci sentiamo. Per l'altra parte basta vedere com'è, tu vedi com'è la sua faccia. Che c'ha? No, che c'ha in faccia? Non l'ha visto. Beh, lo guardi in faccia e capisci cosa può capire dell'arte. Vabbè, comunque vedere un quadro vero e capirai che non lo capisce. Ci risentiamo domani, che è meglio. Ciao. Va ciao, bene. Ciao, ciao. Auguri a Bonito Oliva. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io voglio che parlate di cose interessanti. Vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. Radio 24. Pronto? La passione si sente. E il conduttore?